I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Non si chiameranno più voucher perché sono stati aboliti, ma qualcosa di simile sta nascendo tra le pieghe degli emendamenti della manovrina. Si tratta di una nuova forma contrattuale da gestire completamente online in modo semplificato e del tutto tracciato, che potranno usare soltanto le microaziende fino a 5 addetti e con un tetto di 5.000 euro per azienda. Il tetto di 5.000 euro può salire a 7.500 nel caso di assunzioni di particolari categorie di lavoratori svantaggiati, come disoccupati, gli studenti e i pensionati. È previsto un tetto anche per i lavoratori, che non potranno guadagnare più di 2.500 euro a testa. Il nuovo contratto sarà attivabile a fronte di almeno 4 ore di lavoro e sarà vietato in edilizia nelle attività pericolose, come sono ad esempio gli scavi o il lavoro di estrazione in miliera. Nel complesso il bonus avrà un valore di 12,5 euro lorde l'ora, considerando però un contributo del 32% per l'INPS e i premi dell'INAIL, il corrispettivo orario netto per i lavoratori sarà di circa 9 euro. Per quanto semplificata, la nuova normativa resta più complessa della precedente, i cui abusi certo andavano puniti, e ora rischia di lasciare al mercato grigio e informale gran parte di quei lavoretti che il vecchio vituperato voucher invece aveva riportato alla legalità, garantendo all'INPS un discreto gettito contributivo. Sarebbe davvero un paradosso che una battaglia di principio sui diritti portasse alla fine solo un calo dell'occupazione regolare. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. L'economia americana sarà anche ripresa, ma la voglia di spendere milioni di dollari per dei beni di lusso, non sembra essersi ripresa esattamente come si aspettavano in molti. La più grande sorpresa viene da un'asta che si è appena tenuta in Florida, parliamo di poche settimane fa, in cui era stata messa in vendita la Ferrari F430 del 2007 di Donald Trump, la F1, una Ferrari a cui Trump teneva molto, tanto da metterla in esposizione nella Trump Tower. Divenuto presidente, Trump ha deciso di mettere in vendita, forse per evitare polemiche inutili, ma il risultato non è stato esattamente quello che si aspettava. Le offerte per la Ferrari si sono fermate a 240.000 dollari, 10.000 dollari al di sotto di quello che era il prezzo minimo fissato per la vendita. Ora ci si proverà nuovamente tra qualche settimana in una nuova asta, ma in realtà non è stata l'unica quella di Trump a non essersi mossa dal prezzo di partenza. Una Porsche del 74 Carrera 2.7, una BMW 3.0 del 70 e un altro gioiello, un Aston Martin, tutte invendute con offerte che si sono fermate fra i 10 e i 20 mila dollari, quindi non di molto, al di sotto della soglia fissata dal proprietario. Comunque sia, una cosa è certa, anche queste icone in momenti incerti come questo rischiano di restare ferme in garage, a meno che sia tutta una scena in attesa di un taglio delle tasse che Trump ha promesso ma che deve ancora mantenere. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.